aspettando la zanzara. Con noi il direttore di Libero, Vittorio Feltri, buonasera, buonasera, eccoci qui. Buonasera a tutti voi. Come andiamo? Un trionfo. Trionfo assoluto, come al solito. Se non sento è un trionfo, non posso partire, diciamo, non possiamo partire con questa cosa, cioè, perché sennò sarei depresso anch'io. Se tu mi dicessi, se non mi dicessi chiaramente è un trionfo, mi deprimo subito. Allora, io voglio chiederti una cosa, ma secondo te, te la chiedo proprio papale Chiara, Lerner, che tu conosci molto bene, tra l'altro nel passato hai girato anche degli spot pubblicitari col signor Lerner, dunque non è che c'è una beneficenza, dunque non c'è un rapporto proprio di odio tra di voi, no? Cioè, ecco, secondo te se l'è andata a cercare andando a Pontida? Ma diciamo che io al posto suo non sarei andato a Pontida, perché era evidente che non avrebbe ricevuto un'accoglienza entusiastica. Però se lui ha pensato di doversi andare lo stesso, mi sembra chiaro che debba subire le conseguenze prevedibili, diciamo così. Beh, ma un conto è un fischio, un conto è altro. Un conto è magari un fischio. Strano, perché fai il giornalista, dovresti sapere cosa è successo. Perché se dici però che... la devi smettere di rompermi i coglioni. Ma tu devi informarti, tu perché fai il direttore, tra virgolette, di un giornale. Ma se uno dice che non sa cosa è successo, di che cosa parli allora? Non sai di cosa parli? Io non so cosa è successo, e allora non parlare. Se non sai cosa è successo, leggiti un giornale. Magari non. Scusami, ne hanno parlato tutti i giornali. Io non ho parlato. Ma ne hanno parlato tutti, commenti. Tutti hanno scritto. L'unico che non l'hai scritto, ma probabilmente. E allora perché vieni qui a parlare se non te ne frega niente? Non ho capito. Perché l'ho invitato io. Parliamo del gatto suo. Ma ho capito io, ma parliamo del gatto. Il suo gatto è l'unica roba che gli interessa. Il gatto, parliamo del gatto. Ma dimmi te. Io non so che cosa hanno detto a Kurt Lerner, e si incazza perché uno gli fa capire che non sa quello di cui parla. Ma stiamo scherzando? Mi chiamate il direttore? Ma dai, ridicolo. No, io non parlo più. Informati. Con quell'idiota lì non parlo. Scusami Vittorio, però lo sai che è successo? Gli hanno dato dell'ebreo, gli hanno detto insulti. Dov'è il problema? Gliel'hanno detto non in maniera positiva, diciamo. No, non è che gliel'hanno detto così. Gli hanno detto, l'hanno insultato. Ma che cosa ti aspetti da un'assemblea di direttisti? Infatti, è quello che dico. È quello che dico anch'io. Cosa ti puoi aspettare se vai in una curva? Come se il presidente della Lazio andasse sotto la curva della Roma. Che cosa ti aspetti? Che ti danno i fiori? Per forza. Ma è talmente evidente. Ma io non riesco a capire questi discorsi. Ma non c'è andare lì in mezzo a quella marmaglia che poi ti prende per il culo. Tu non andresti mai a Pontida in mezzo alla gente, per esempio. Ma che cazzo ci vado a fare a Pontida? Non ne frega niente. Io voglio dire, cerco di evitare tutte le situazioni che possono infastidirmi, e probabilmente anche Caverna avrà intuito che lì non sarebbe stato accolto con, e dunque se l'è andata a cercare, secondo te ce l'ha fatta apposta per cercare poi il caso, per poi adesso dire che Salvini, adesso non arrivo io a dire questo, forse ha sottovalutato la situazione, adesso, però è che Caverna sia uno scemo qualsiasi, quindi è uomo che intelligenza ce l'ha, sapeva benissimo, quindi avrà valutato il rischio, probabilmente non lo so, può darsi che l'abbia cercata, può darsi di no, ma come faccio io a sapere tanto quasi tutto del mio ufficio, fottendomene sia di Pontida che di Gabriele. Ma è come se tu andassi, per esempio, a fare una. È come se tu andassi in piazza a Napoli, a Napoli con. Cioè, no, qualcuno, qualcuno magari i più esagitati sono lì e ti dicono: che cazzo hai detto su Napoli, pezzo di me? Cioè, è come se tu andassi a Napoli. No, però, scusami, io sono stato a Napoli nell'ottobre dell'anno scorso e mi hanno accolto in modo affettuoso, non mi ha detto niente. Ma vuol dire che mica ce l'ho con i napoletani, che me frega me dei napoletani. Ho degli amici, i miei più cari amici sono di Napoli, Paoli Giotta, Romanelli, Ettore Botti. Ma che discorso? Ma Salvini dovrebbe chiedere scusa, perché Lerner dice Salvini mi deve chiedere scusa. Bossi mi chiedeva scusa quando succedevano delle cose. Invece Salvini. Tu dici sti cazzi, chi se ne frega? Ma non frega, faccia via, fa quello che vuole. Se non vuole chiedere scusa, non chiede scusa. Ma cioè, non sono problemi che mi stanno particolarmente a cuore. No, ma la piazza di Pontida viene descritta dopo questi episodi, anche un giornalista che è stato picchiato, una telecamera che è stata rotta, cioè viene descritta come una piazza di bestie, di gente che insulta, sì, eccetera. Ma è vero o no? Anche i giornalisti sono abbastanza bestie, da come li conosco io. Quindi praticamente è uno scontro al vertice. Tu dici che c'è stato uno scontro lì a Pontida, dove tu comunque non andresti mai. Comunque, ma tu no, non andresti. Ma io cosa se vado a Pontida? Tutta la massa di gente accalcata, tu dici, no, per carità. No, io odio la folla, odio il popolo, la popolazione, tutte queste cose. Io me ne sto per i fatti miei. Senti, tu nei giorni scorsi hai scritto che finiremo schiavi di africani e musulmani, ecco, addirittura. Cioè, questo governo. Quello è evidente. Basta darsi un'occhiata in giro e si capisce che purtroppo cultura islamica sta prendendo piede. La cultura islamica sta prendendo piede. Sì, come la vuoi chiamare? E gli africani? E gli africani? La cultura islamica sta prendendo piede. Io ho appena assunto una governante per la mia nuova casa qui in Milano, ed è un'africana. Che meraviglia. Sì. C'erano anche allora quelli che lavoravano nelle piantagioni di cotone, per quello. Senza il cotone. Ovvio. Nelle piantagioni c'era sempre quello che puoi trattarle uguali come nella America del Sud, non c'è problema. Ma un attimo, imbecille. Allora? Ma scusa, c'è una signora che cerca un posto di lavoro. Certo. Un eroe. E io l'ho presa. Tu ce l'hai una di colore a casa tua, Parenzo? Ce l'hai una di colore? No, non ce l'hai una di colore, per esempio. Non una di colore o non di colore, ma cosa vuol dire? Ma che roba è? Mens nana in corpore sano. Dai, hai fatto la battuta. Nano. Scusami un attimo, ma gli africani, secondo te, nel suo caso non possiamo neanche parlare in Africa, di Mensana, in Africa non si produce come a Bergamo. Insomma, mi pare evidente, c'è cioè, gli africani che Bergamo, no, ma io non la porto a Bergamo, la porto a Milano. Sì, questo c'è. Ma il tema non è quello. Cioè, in Africa, secondo te, sono quelli che arrivano dalla. Ma lo stabilisce quel coglione di Parenzo. Scusami, io non ho capito una cosa. Ha fatto un'affermazione che mi permetto quale, di contestare. Quale affermazione? Permetto. Perché l'esimio direttore ha detto siamo invasi dalla cultura islamica. No, e anche dagli africani. Ora io non voglio insistere, ma cosa vuol dire siamo invasi dalla cultura africana? Io non riesco a capire, guarda, sono basito. Dagli africani e dalla siamo invasi dagli africani dalla cultura islamica. Io ho cultura islamica, non africana. Quale sarebbe la cultura islamica che ci ha invaso? Quale sarebbe? Fammi un esempio che non riesco. Studia il Corano. Ma dove cosa c'è qui? Dov'è l'invasione della cultura islamica in Italia? Dov'è? Che dici che stai sempre chiuso in ufficio e a Bergamo? Dove l'hai vista sta roba? Ma io non lo so, veramente. Guardi troppi film quando stai chiuso in casa. Tu non la vedi perché sei orbo. Ma guardi troppi film in casa, ti posso dire. Troppi. Io non guardo, no, sei tu che guardi i film perché ti fai delle idee errate sulla realtà che ti circonda. E tu non sei in grado di afferrarla perché sei notoriamente idiota. Mamma mia. Scusami, un'ultima cosa, direttore, ma gli africani che vengono qui con i barconi, eccetera, eccetera, che cultura portano? Una cultura, diciamo, di produttività oppure sono sostanzialmente degli scansafatiche, come tu hai detto più volte? No, io non l'ho detto più volte. Ci sono degli africani che purtroppo non avendo imparato a fare un mestiere che trovano un posto di lavoro, questo è evidente. Questo è chiaro, perché la cultura del lavoro in Africa non è sviluppata, diciamo, come in Svezia. Sì, non siamo a Bergamo, insomma, diciamo la verità. Ma non c'è niente di strano nel dire questo. Dopodiché ci sono tanti africani che si applicano, si imparano e fanno delle cose egregie e quindi sono in grado. Comunque la notizia fondamentale con cui chiuderei questa bellicosa conversazione è questa, che il direttore Vittorio Feltri ha assunto a casa sua una donna di servizio nera. Nera, uguale. Come la chiamerai? Nera, negra, uguale, no? Cioè... Nera, per me le parole. Questo è fondamentale. Negra, portami l'acqua, glielo dica, vediamo cosa le fa. Glielo diglielo pure quando torni a casa sera. Ehi, negra, portami l'acqua. Ma perché devi dire così? Scusa, chiama negra. Chiama, sei così, spero che non ascolti questa conversazione, perché io ti porterei l'acqua, ma ci sputerei dentro, fossi della signora che lavora nella tua casa. Se tu dici negro, io, se fossi la tua cameriera, ci sputerei dentro quell'acqua che ti porto. Ma perché? Se sentissi che li chiami negri, capito? Pensa a te, pensa a te. Ma perché li dovrebbe sputare dentro? Scusa, io, se fossi la sua collaboratrice domestica e sentissi questa trasmissione, quando il direttorissimo torna a casa gli direi: scusa direttore, non so come parla, di quale zona dell'Africa è, hai usato la parola negro. Dice: sì, normale, sei una negra, portami dell'acqua. Io andrei in cucina, prenderei il bicchiere d'acqua gasata, ci scaracchierei dentro e glielo porterei al direttore. Ecco, certo, cosa, ecco, un cafone, sì, un cafone, lo farei nell'anima. Sicuro lo farei, come sei un e mi auguro che lo faccia la signora tua che ti aiuta a casa. Fai tu, non lo farà. Fai tu, non lo farà. Ma perché? Dentro. Ma lui la considera un essere umano dentro. Come tutti. Tu non ce l'hai. Tu non ce l'hai un animatore. Come fai, Giuseppe, a convivere con un imbecille del genere? Torna al giornale, va, che hanno bisogno di te. Che titolo fai domani? Va? Hanno bisogno di te. Al giornale. Ma figuriamoci, lo compro. Ma scusa, qual è il titolo? Qual è il titolo domani? Ma qual è il titolo? Ma il tuo no, di certo, copro il Corriere della Repubblica. Ma qual è il tuo? Qual è il titolo? Il titolo, qual è il titolo di domani? Il titolo imperdibile. Imperdibile. Qual è il titolo imperdibile di domani? Cos'è? Paretto, questo è fatto tante, l'avete fatto tante volte. E qual è la notizia di domani? E qual è la notizia di domani? Sentiamo, ma qual sono è la cazzi notizia? Suoi, non lo leggi qual tanto. È, qual è ma la notizia di domani? Ciao direttore, qual è la notizia di domani? Ma che direttore? Ma chiami di direttore. Mauro. Buoni, devo venirsi sola a Milano. Devo venirsi sola a Milano. Ma che so dove abiti, Ci impiego un attimo, in un'ora e mezza sono già a Milano. E ti vengo a staccare il culo io. Io non scherzo, mezzo, non sono mica un pagliaccio come te. Ricordato, idiota. Io ti spacco il muso. Ricordato, imbecille. Questi di nuovo che fanno la musica rap, trap, trupp, trap, ma lascia perdere, che cazzo, ti fa lo male dei cocci, prima la musica era melodia, passione. E non abbiamo mai finito un film, Davide, preferivamo scappare, prima la musica era melodia. Cosa scelta gli occhi rossi poi, Lorenzo, preferivamo scappare. Questi di mo che fanno la musica rap, trap, truppe, trap, ma lascia perdere, che cazzo, ti fa lo male dei cocci, prima la musica era melodia, passione. Provare, finché non riesci a dire si può fare. Vi racconterò i tentativi ed i successi di chi oggi in Italia ci ha provato e ci è riuscito. Si può fare. Ogni sabato e domenica alle 8:30 su Radio 24. Si riparte, torna l'autunno, priorità sicurezza e salute. E l'economia? Quella di tutti i giorni? Anche quella è molto cambiata. Addio al panino a pranzo, spesa online quando possibile, socialità ma in sicurezza, viaggi di lavoro, bye bye e molto altro. Allora facciamo i conti. Sono Anna Migliorati, vi aspetto con l'economia delle piccole cose. Torniamo al nostro consueto orario. Sabato alle 7:15 qui su Radio 24 e poi www.radio24.it, tutte le puntate da riascoltare. Aspettando la zanzara. Una piotta e 10 così, terza marcia, non ci sono problemi. Vi insegno a guidare, quando il semaforo è rosso si fa così, tac, gli imbocchi qua, gli rigiri qua, fateli così. Va. fratelli, ho sfornato tutto, fratelli. Ho sfornato tutto, fratelli. Ho sfornato tutto, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Te dico fermate, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Te dico fermate, fratelli. Ho preso il muro. Ho preso il muro. Ho preso il muro, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Eh sì, fratelli, ho preso il muro. Dai, oggi do anna così, fratelli. Oggi do anna così. Oggi do anna così, raga. Se vi siete salvati alla diretta, siete miardari. Fratelli, no. Fratelli, ne ho preso il muro, fratelli. Tu sei una revolution. Care, care, care. Pronto? Age! Chi è? Sono Cruciani, come andiamo? Cosa? Sono Cruciani, sono Cruciani! Ah, dottor Cruciani, buonasera! Come stai, Age, amico mio? Sono io, la Paola, come sto? Mi ha beccato, stavo pure a cucinare la carbonara, se vuoi ti invito, eh? Ma no, sto a Milano! Ma una carbonara, ti dico, fermate! Sto a Milano, amico mio, invita Parenzo alla carbonara, no, a mangiare la carbonara. Vabbè, Parenzo, invito pure a te, dai, tutte e due. No, non ci penso in alcun modo, caro signore, non so neanche chi lei sia. Non voglio mangiare con gente che ha precedenti penali. Allora, quindi, che me sta grazie. A chiamare Paolo? Ma c'ha ragione, scusa, ma che cazzo, che lo tratti, beh, da criminale? Non ho chiamato nessuno. Ho detto che questo fa carbonara migliore di Roma, anzi, migliore d'Italia. Ma ho capito, ma signore, mi dici pure chi ha... sei. Ma mandala a fanculo, lei ha precedenti penali o no? Ma mandata a fanculo, figura. Ma lei, signore, scusi, io, eh. Cerchiamo di essere educati. Lei ha precedenti penali, amico caro? Troppi. Allora... troppi. Ecco, allora lei mangia la sua carbonara a casa sua e se non le dispiace io la mangio a casa mia con i miei ma figli. Ma ti ha invitato, è stato gentile. Me ne fotto, me ne ma io non voglio mangiare con un criminale, ma non so neanche chi sia, poi peraltro, perché non voglio, no, ma non perché lo tratti non male? So. Non ho capito. Ma criminale di che? Ma non ho capito, criminale di che? Mo per qualche precedente penale uno è criminale, ma mica no, se lo giudica il libro dalla copertina. Bravo, no, bravo, Alge, bravo, diglielo, diglielo. L'altro. Scusa, ma chi è Alge? Alge, è un amico. Io mi chiamo Algero, ma... mi chiamo Algero e lui mi sta a chiamare Alge. Che problema c'è? Scusa, non ho capito. Di cosa si occupa lei esattamente, signor Alge? No, lo dico per gli ascoltatori io della Confindustria. Io faccio quello che fate voi, rompo i coglioni alla gente. Perfetto. Scusami, però io ti ho chiamato perché ho visto un video in cui tu con la macchina avevi in città hai fatto 110, 120 e poi hai fatto pure il botto. Ma stavo andando a piano, eh. Però sì, no, 110 c'ero un figo, io l'ho rotto pure la macchina l'altro giorno. Ma in città 110 in criminale, scusa, come si fa? 110 ma di più, in città guarda non si può che andare. Stavo andando lento là. Sì, ma come lento? Ma non si può andare a 110 in città, scusami. Ma chi ha detto? Non c'è stava la segnaletica orizzontale. Lei ha mai letto il grande drammaturgo William Shakespeare? William chi? Shakespeare. No, io di Shakespeare non ho niente, non so chi è. Qual è l'ultimo libro che hai letto, Alge? Vabbè, ma adesso no, al di là del libro. Geronimo Stilton. Beh, oh, se quello ha letto Geronimo Stilton saranno cazzi suoi, no? Vabbè, cioè... è già un inizio. Scusi, che ne pensa lei del coronavirus, di come si sta evolvendo la situazione? Ecco, un altro di no, la TV manco guardo, io guardo solo il canale mio. Ma ho capito, ma il coronavirus, saprai qualcosa o te frega un cazzo del coronavirus? Sì, l'altro giorno sono entrato al supermercato, stavo senza mascherina, infatti mi sono fatto una litigata, gli stavo pure a meno uno perché mi stava a fare un mi stava a rodere il culo, stavo pure con mio padre, ma scusi signore mia, scusi signor di... gli ho fatto ma quale mascherina, ma che ha fatto, ma mica son fretto, ma veri dannate, ne ho. Ma scusami, no, però... scusi signor direttore, però scusi signor direttore, lei non è che si autocertifica, lei quando si va in un locale chiuso bisogna mettersi la mascherina e lei se ma la mette in cura, ma io sto andando a fare spesa, ma io mi devo mettere la mascherina, mica son malato, certo. Ma che, come si permette questo qua di infettare chiunque, scusi? Ma a me che devo fare? Ma scusa, lei mi ha l'obbligo di mettersi la mascherina quando va ma in un luogo chiuso. Ma io l'obbligo, a me non mi sono mai piaciuti. Io sono mai piaciuti gli obblighi. Lei rischi... Ma ho capito, ma digli qualcosa anche tu, però cosa vuol dire sono ma mai sì, piaciuti? Ma sì, va bene, vai in un luogo pubblico. E che, come hai risposto e viene a questo? Sanzionato. Che è successo dopo, Alge? E che è successo? C'è stata una litigata, abbiamo fatto scappare quello. L'hai fatto scappare quello che ti aveva detto di mettere la mascherina? C'è un lavoratore che stava facendo il suo lavoro. Mio padre è entrato pure lui, ha fatto il panico. E pure tuo padre, che diciamo anche lui. Pure anche il padre mi sembra proprio di una scuola, no? Anche lui, diciamo, vabbè. Sì, assolutamente. Mio padre è assolutamente. Ha fatto pure no, la... In genere i padri arrivano, danno una sberla al figlio e dicono: caro ragazzo, che cosa stai facendo? Boom, una sberla. Ma se invece qui... è uscito così, pure il padre vuol dire che pure lui, là, no? Pure lui qualche precedente ce l'avrà pure lui, ecco, no? Immagino. Il mondo... una bella tradizione. Scusa, Giorgio, però famiglia, mi risulta, diciamo, mi risulta da amici comuni che l'altro giorno si entra... guarda mai Del Debbio per caso, dalla vostra parte? Lo vede mai il programma di Rete 4 di Del Debbio? Ma non guarda la televisione, no, t'ha detto. No, io la TV non la guardo, l'ho detto. No, zero. Scusami, Giorgio, ma mi risulta però da amici comuni che abbiamo che l'altro giorno sei entrato dentro un supermercato e non eri proprio, cioè, eri messo, insomma, eri attrezzato bene. Non so come dirla la cosa, o sbaglio. Ah, sì, 357 sempre nei miei jeans. Ma come 357? Che sei entrato con la pistola? Sei entrato? Cosa vuol dire? Che sei? Uno si deve sempre tutelare, visto mai che magari mi vogliono levare l'orologio o qualche collana. Ma chi lo voglio dire? Ma lei al Porto d'Arby, scusi, te l'ho capito, ce l'ha o no? No, non ce l'ho. Ho capito, non è che uno... si va in giro con la pistola? Ma che roba è? Ma lei è un crimine, è ragazzi, personale. Ma, oh, cioè, ma quelle dice, ci sono delle regole in uno Stato, non è che uno fa ma quello che gli pare. Non sono mai piaciuti, dottor Cusciani. No, questo... amico caro, allora te ne vai in galera, scusami se te lo dico, ma la cosa è molto semplice. No, no, eccetera, se ma già che hanno provato a arrestarmi, però non è finita bene. In che senso, amico? Cosa mio? Vuol dire non è finita bene, scusi? Non è finita che sto in libertà. Sta in libertà, nel senso che... adesso, secondo me, è l'occasione, se lei viola la legge, di ritornare nelle patrie galere. No, ma perché, ma perché lo vuoi in galera? Ma se uno no, ma che ho bufato? Oh, ma se uno non rispetta la legge, ma scusate ragazzi, se uno non rispetta la legge, dipende, dove deve andare? Dipende cosa significa non rispettare la legge. Ma come dipende? Non c'è, ma dipende. Ma che vuol dire? Io do la legge. Vabbè, no, però. Amico mio, non la fa lei la legge. Mi scusi se glielo, signor Alce, se glielo Alge, dico, non la fa lei la legge. Non la fa, non funziona io, così. Io comando a casa mia e comando pure in giro. Se c'è sta qualcuno che c'ha problemi, che me li venisse a dire. In faccia, però. Ho capito, amico mio, però sai, ogni tanto ci sono delle regole da rispettare, che ne so, i limiti di velocità, le leggi sul coronavirus. Ma quale limite di velocità? Io non c'ho limiti adesso di, e mo me sta a fare anche a sapere, mi scusi, signora Altre, volevo dire questo. Alge. Lei conosce il motto Homo homini lupus, quello di Hobbes, che diceva ogni uomo è un lupo per un altro uomo e quindi si crea lo stato di diritto. Ce l'ha presente? Ma io sono un leone, io sono il re della giungla, ma quale lupo? Scusi, i lupi me li mangio a colazione. No, ma è un altro di Hobbes, però è un altro discorso. Sì, però lascia perdere Hobbes, non è il caso. Che a me queste cose qua, Shakespeare, lupus, ruma, ma che sta di? Parla come Magna, Cruciani. No, ma quello è Parenzo, io parlo sempre più o meno come Magna. Vabbè, uguale, tra Parenzo, Cruciani, stiamo là. Vabbè, Alge, comunque ti saluto. No, mi raccomando, non andare sempre così veloce con sta macchina, che poi fa il botto e comunque poi è pericoloso, 110. Tu che vai, pure più veloce di 110 in città, sì. Ma io 110 perché stavo un attimo tranquillo col telefono in mano, stavo a guida col ginocchio, se no era col telefono. Ma ti devono togliere la parte, ti devono togliere tutto a te. Stava a fare la diretta, stupendo. Ti devono diretta di che cosa stava facendo, signor Luce? Non ho capito. Stavo a diretta su Instagram, perché io stavo a insegnare la cassetta a guidare. Ma lei è un criminale, non può guidare col telefonino e fa la diretta. Ha capito o no? Poteva uccidere qualcuno. No. E non lo vuoi capire. Che io senza cintura col telefono in mano, guido così. Ma ho capito, però non è regolare, amico mio. Lei gliele devono ritirare la patente immediatamente. Che cazzo ti devo dire? Alge, ma come la patente mi devono ritirare? A me mi serve la patente, come mi sposto se no? E appunto, bisogna rispettare le regole, come appunto? Ma bisogna rispettare le regole. Queste regole, le regole non so, di casa mia. Oh, amico mio, non ci sono regole per 17-27, non ci stanno regole. Ma che cosa le ha insegnato suo papà? Mi scusi. A non rispettare le regole. Ma che, come hai insegnato a fare? Ma che vuol dire insegnato a fare le rapine? Alge, torna a fare la carbonara, che è meglio, va. Ciao, ciao Alge, grazie. Ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao. Sono le 6 del mattino, buongiorno a tutti. Ma no, presidente, no. Proprio lei mi sbaglia orario. 24 mattino inizia alle 6:30 e fino alle 9 su Radio 24 è qua per portarvi fatti, opinioni, analisi e le interviste con ministri, politici, industriali, sindacalisti e non solo sui temi dei quali discute il paese. Quello che serve per dare il via alla giornata. Ci sarò io, Simone Spezia, con voi da lunedì al venerdì. Spezia, basta, dai, sei una piaga sociale, su con la vita, dai, su. Eh già, per fortuna che dopo il GR delle 8 mi raggiungerà Paolo Mieli per commentare i fatti del giorno. Vi aspettiamo, ovviamente qua, su Radio 24. Tranquillo Spezia, so che sei bravo. Si riparte, torna l'autunno, priorità sicurezza e salute. E l'economia? Quella di tutti i giorni? Anche quella è molto cambiata. Addio al panino a pranzo, spesa online quando possibile, socialità ma in sicurezza, viaggi di lavoro, bye bye e molto altro. Allora facciamo i conti. Sono Anna Migliorati, vi aspetto con l'economia delle piccole cose. Torniamo al nostro consueto orario, sabato alle 7.15 qui su Radio 24. E poi www.radio24.it, tutte le puntate da riascoltare. Aspettando la zanzara. Via! Da questo canale! Direttore, le mai aiutare? Santino non può stare carincia manco un altro giorno. L'ammazzeranno. No, no, no. Ma ti devo pure incapare una cosa, che nella mia prigione non si muore senza il mio permesso. E poi spi uno, quando parlano si devono assumere la piena responsabilità di quello che fanno. E chi mi volesse rire? Che te voglio rire? Che mi sono sfastriata, mi sono scassata in palla di queste richieste d'aiuto. E vengono i bambini, le fidanzate, le mogli, e qua ci manca che vengono solo i nonni e zii, non me ne fottono cazzo del tuo fidanzato. Guarda questo ufficio, guarda sto posto di merda, io qua dentro ci passo 12 ore al giorno e non ho commesso nessun crimine. E lo sai quanto mi danno al mese? Lo Stato mi dà solamente 2 milioni tutto compreso, anche gli assegni familiari, e da lì ci devi pagare la casa, la macchina, da mangiare, e forse ti rimangono 4 soldi per puttane. Almeno i soldi per le puttane li devo risparmiare, o no? Mi spiego? Se ci dino vogliono tuoi che io gli faccio un favore, anche tu devi fare qualche piccolo sacrificio. Che ne dici, eh? Vedi che hai capito, bravo. Bravo. Si conclude qui questa edizione flash di Planet Goal e vi ricordo che domenica la nostra trasmissione inizierà alle ore 18. Un affettuoso saluto dalla vostra Serena Michetti. Ed è con noi una delle poche persone davanti alle quali io mi posso inginocchiare, altro che Floyd. Altro che Floyd, altro che Stati Uniti, altro che Stati Uniti. Stai zitto tu, Parenzo, che ripeti sempre le stesse cose quando c'è Mario Salieri qui. Una delle poche persone davanti, a quella, davanti alle quali io mi inginocchio, davanti alle quali io mi inginocchio con devozione, non è per la cosa dell'America, Floyd, è la persona che mi ha regalato momenti di gioia estrema. L'altro giorno io sono andato a ripercorrere tutta la saga di Concetta Licata. A proposito, devi proteggere meglio i tuoi copyright, caro Mario, perché si possono prendere ovunque i tuoi film. Bisogna proteggere meglio questi capolavori. Epiche, stai zitto, Parenzo, proprio. Voglio che fai silenzio un attimo. Mario Salieri con noi, eccoci qui. Ciao Giuseppe, ciao Parenzo. Ciao, mi inginocchio, sono in ginocchio. Maestro, sono in ginocchio davanti a te. Non mi ginocchio davanti a nessuno, davanti a te mi inginocchio. Lo so che tu non ami queste cose, però io ti assicuro che sei stato un pezzo fondamentale della mia crescita. Che ti devo dire? No, no. Ti ringrazio. E non credo che sia stata una crescita malsana. Certo, il sesso ha avuto una sua influenza nella mia vita. Beh, sei un malato. Ma sei no, sono malato, sono uno che ama il sesso. Sì, ma è anche certificato che tu, ce lo dicono tanti psichiatri amici in comune, che hanno certificato il fatto che tu su questo hai una malattia, malattia. Ma no, ma sono semplicemente amante del sesso in tutte le sue forme, dai, assolutamente. Le persone che sono state con te lo sanno, sei una persona malata, no, che a un certo punto va anche, però, si è fatta anche seguire. Ma e non quindi è vero, ma che risultati, cazzo dici? No, va aggiungo con risultati evidenti. Negativi, cioè zero. Negativi. Allora, maestro, io voglio chiederti una cosa, è uscita la notizia che hai vinto la causa con sei stato assolto, diciamo, la causa con Raffaele Auriemma, perché ti aveva accusato di averlo messo di averlo messo in un film con una sua telecronaca, che è andata fino in un film e lui non sapeva che era un film porno. Come si fa, cioè voglio dire, lui lo sapeva che il film era un film porno, no? Ma certamente che lo sapeva benissimo. Vedi, Auriemma, il problema è questo. Auriemma problema nasce come commentatore sportivo sì. per piccole radio e TV locali. Sì. Gode di una certa notorietà in campagna per sì. le sue frasi celebri, tipo si gonfia la rete, sì, insomma, certo. e per le sue indiscusse capacità, perché è molto bravo anche. Assolutamente. Per questo motivo nel 2005, quando io realizzai questa serie che si intitolava Serie di Football, sì. decisi di fargli commentare un torneo che avevo organizzato all'Etna Stadio di Praga, che sì. è lo stadio dello Sparta Praga, tanto per sì. intenderci. Sì. Proprio perché ritenevo fosse una voce interessante, così attraverso amici in comune lo contattai, prendemmo sì. un accordo sì. Economico naturalmente, sì. fece la telecronaca. Hanno detto 500 euro, hanno scritto da qualche 500 parte. 500 euro all'epoca, sì, 500 euro, è il 2005, sì, fece sì. la telecronaca del, anche molto bene, devo dire, firmò la liberatoria e fu pagato con un regolare Ma lui assegno. Sapeva, tu sei sicuro, lui sapeva? Ma certo che sapeva, ma a parte che fu presentato da amici in comune, ma poi scusami Giuseppe, io nel 2005 avevi a Napoli ero già. Conosciuto anche dai bambini di 10 anni. Ma certo, già c'era stata Concetta Licata, già c'erano stati ma tutti sì, i film. Ma eri... c'era stata una rete locale, Telecapri, che praticamente trasmetteva costantemente tutti i miei film nella versione erotica. Cioè non poteva, quindi, pensare, insomma... non poteva pensare di andare, ma come dire, a fare una telecronaca in un film. Tra l'altro lui oltre che sapere benissimo chi fosse, insomma, mi mostrò anche, voglio dire, dei complimenti in merito al mio lavoro. Insomma, quindi fu una collaborazione del tutto normale. Perché lui mi ha detto, no, io non sapevo che sarei andato a finire dentro un porno. Questo mi ha detto. Adesso ti spiego i problemi quali sono. I problemi sono stati due sostanzialmente. Il primo è che questa serie ebbe un enorme successo. Per due motivi. Per il motivo che praticamente fu una serie di poco Salieri Football, di poco antecedente alla nostra vittoria dei campionati del mondo, e fu commercializzata con un album di figurine in stile Panini, diciamo, quindi una cosa abbastanza inedita. E la seconda è che alla fine di questa serie c'è una mia intervista esclusiva a Carlo Petrini, che era un ex calciatore della Roma, sì, di Nils sì. Lidom, sì. Nereo Rocco, del sì. Milan, eccetera, che praticamente espone una denuncia incredibile che andò a finire addirittura in alcuni uffici della magistratura. Però quello, il punto è un altro. Lui sostiene, tu, ecco, insomma, queste le due tesi. Il punto è questo, adesso arriviamo al suo, che è il secondo punto. Il punto è questo, che lui nel 2008 viene assunto da Mediaset Premium, quindi la sua carriera inizia praticamente a diventare importante. Cioè, e lui si è vergognato dopo, si è vergognato di quella roba. Non dice. È che si è vergognato, Giuseppe, purtroppo in molti settori, vedi, io sono anche un direttore di doppiaggio, io ho lavorato, prima tu hai fatto ascoltare un brano di Concetta Licata, quell'attore che doppia... Aspetta, che non sento più niente. Allora, quell'attore che doppiava? Ecco, quell'attore che doppia in dialetto napoletano, un sì. attore americano che si chiama Ron Jeremy. Come è no? un famosissimo attore di cinema e di teatro. Ma che fine ha fatto Ron Jeremy intanto? Jeremy ebbe una disavventura, ebbe una malattia, insomma, abbastanza seria. Si è ritirato, ma ora sta tranquillo. Lui è una celebrità in America. Quindi, Ron Jeremy è un grandissimo, quello di Parenzo, quello un po', diciamo, nanerottolo, un po' grosso, nominare. Che è un super dotato, grande protagonista del porno mondiale. Mi chiedo scusa. Chi prenderesti come protagonisti del mondo del calcio? Cioè del mondo del calcio di adesso? Chi ti sembra adatto a fare un film con te? So che tu non ami le star, no? Tu hai scoperto degli attori che non erano noti, insomma, li hai fatti diventare famosi. Ma del mondo del calcio di adesso, chi prenderesti? Guarda, tu parli con una persona che non è molto accorsata, ti dico la verità, perché non è tra i miei sport preferiti. Comunque certamente Cristiano Ronaldo, insomma, è un bel personaggio, un personaggio che certamente, insomma, potrebbe suscitare l'interesse, soprattutto secondo te, un grande chiavatore, probabilmente sì. Senti, ma che fino a fine, io sono sempre curioso di chiederti, Gio Calzone, adesso Parenzo non lo conosce, ma Gio Calzone, no, nel mondo degli amanti del porno, conosco stato... il calzone, beh, la pizza, amico, il calzone. Gio, sì, però è chiaramente uno pseudonimo, però Gio Calzone è un personaggio innanzitutto con una minchia notevole, con una minchia... quello pseudonimo glielo devi io, perché durante una produzione a Napoli che si intitolava Sceneggiata Napoletana, lo portai per la prima volta nella sua vita a mangiare una pizza. Lui è francese, è un attore francese. Dico, lo portai per la prima volta a mangiare una pizza a Napoli e si mangiò 4 calzoni napoletani, che è una cosa assolutamente indecente. Da lì nacque il soprannome Calzone. Adesso Gioi Calzone, che si chiama Joselen, vive a Budapest e si occupa di ristrutturazioni immobiliari. Ma una delle delusioni più grandi che ha avuto da parte, che ne so, di porno attrici, qual qual è stata? Una donna che ti ha deluso, che poi si è ritirata? Che delusione. Ah, ma perché? Perché è una delusione? Perché era una donna estremamente intelligente, estremamente piacevole, sì, con cui si conversava, una meraviglia. Ma sul set, da un punto sulle scene di sesso era, sì, una statua, cioè era una cosa veramente indescrivibile. Per riuscire a tirare fuori qualche emozione bisognava lavorarci tantissimo sopra. Ma questo è interessante, perché molti considerano, sì, l'aspetto di Moana Pozzi come grande pornostar. In realtà, secondo me, era più una persona cerebrale e di intelligenza, di conoscenza, cioè, più che un'attrice, più che una performer sul set, secondo me. Assolutamente, come performer a mio avviso non valeva nulla. Senti, però una donna dotata di grandissima intelligenza e di grandi capacità comunicative. Un'ultima cosa, scusami, recentemente abbiamo parlato di una cosa che ovviamente molto nota, che è lo squirt. Tu sei dell'idea che lo squirting sia, non so se te l'ho già chiesto, sia una roba totalmente finta nei tuoi film? Non c'è quasi mai lo squirt. Senti, no, a me fa un po' schifo, ti dico la verità, anche perché spesso questo squirt è pipì, insomma, quindi voglio dire è una pratica che a me non piace. Un grande confronto con la signora lì, come si chiama la signora quella? Sì, chi è quella, la squirtatrice nostra preferita, quella che dice di avere tre litri, di fare tre litri. Sì, ci vorrebbe un grande confronto. Cioè, tu non lo fai mai, nei tuoi film non c'è quasi mai. No, questo non contengono questo. Ed è tutto finto, secondo te, nel porno? No, cioè, guarda, sinceramente non lo sai. Non saprei. Credo che in alcuni casi possa essere vero, ma insomma, in gran parte dei casi si tratta di pipì, insomma, non di altro. Ciao amico mio, ciao, grazie. Un giro per gli spettacoli più suggestivi d'Italia, una tournée radiofonica delle prime nazionali, un punto con interviste ai grandi dello spettacolo. Tutto questo è Cartellone, l'appuntamento settimanale per trovare quello che fa per voi. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto sabato prossimo, 5 settembre, alle 15:15, per portarvi a sognare in tutti i teatri d'Italia. Ogni giorno alle 13 i nuovi fatti di attualità iniziano a prendere forma. In 60 minuti proviamo a spiegarveli bene, capire per farsi un'idea da condividere con gli altri, perché la cronaca non è solo una notizia dietro l'altra. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, tutti i giorni alle 13, naturalmente su Radio 24. Provare finché non riesci a dire si può fare. Vi racconterò i tentativi ed i successi di chi oggi in Italia ci ha provato e ci è riuscito. Si può fare, ogni sabato e domenica alle 8:30 su Radio 24. Si può fare. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. Ma è possibile che c'è? Le piruette della politica, le notizie che arrivano da ogni parte del mondo, la cronaca nera, la cronaca bianca, lo sport, gli spettacoli, io non ci capisco più niente. Ma come si fa a seguire tutto? Scusa, ma tu ascolti Effetto Notte? No. Ah, ecco, si capisce. Effetto Notte, di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21, su Radio 24. In modo che un giorno non potrete dire: io questa mica la sapevo. Aspettando la zanzara. Finalmente ho trovato il tuo numero, ho sentito la tua voce, mi sento meglio. Ho fatto 2 anni bruttissimi, aiutatemi, vi prego, finalmente ti ho ritrovato, Giuseppe tesoro, anche a Parenzo, meno male, perché avevo perso i vostri numeri, finalmente adesso mi sento protetta, grazie. Maurizio Paradiso è un urlo di disperazione, sì, poverina. No, non riesco a capire, ecco, cosa è successo effettivamente. No, ma vero, sta male, mi ha chiamato anche a me prima, mi ha dato un messaggio, poi voleva il tuo numero, insomma, aspetta che la chiamo. Non è la solita Maurizia, ecco, aspetta, non è quella che abbiamo conosciuto in altri contesti. Maurizia, siamo noi, ecco. Siamo qua. Noi, cara, ciao. Meno male. Non è la solita Maurizia, abbiamo detto dalla voce, dalla disperazione. Siamo in diretta, quindi. Ah, che attenti. Bello. Quindi bello. ti prego. No, però Maurizia, scusami, allora, cosa è successo? Perché leggo qui, sono sola, mi hanno abbandonata tutti, mi considerano già morta. Che è successo? Certo, ma certo non voi, io avevo perso il vostro numero perché mi hanno rubato il telefono nel bar dove tu ti collegavi in diretta con me, ti ricordi? Come no, amica mia, certo. Me l'ha rubato una zingara che adesso l'hanno arrestata. Vabbè, adesso, perché rubacchiava, ecco. Vabbè, me l'ha rubato, ecco, e non avevo più i vostri numeri, li ho cercati dappertutto. E c'era la zingara allora adesso? No, ma sua figlia mi ha rubato il telefono, che probabilmente pensava di poterlo vendere a chissà che cosa. Il mio telefono valeva 5 euro, capirete? Sì. E mi ha rubato tutti i numeri di telefono che avevo nella mia vita, compreso i vostri, che siete stati i miei benefattori per anni. E io sono rimasta isolata dal mondo. Adesso finalmente, io ho pensato persino di venire al Sole 24 ore. Ma dovevi venire, dovevi venire, perché non ti sei fatta viva? Io pensavo che ti assicuro, fino a poco tempo fa, pensavo che tu eri malata, perché adesso non so a che punto sia la tua leucemia. No, sono qui tesoro, sono qui nel bar dove mi hai sempre chiamato tu. Ma che è successo? Che ti ho visto, ti ho sentito disperata. È morta mia mamma. Oh mamma mia. È morta l'unica persona che avevo. Aiuto. Ma scusa, quando è morta tua madre? È morta da un anno, la Barbara D'Urso, che è gentile perché è una brava donna. Che fatto? Che è successo? Ma no, mi aveva promesso nel 2016 che me la cercava, che andava, quando io sono stato da lei a Domenica Live. Sì, live. Mi aveva promesso che me l'avrebbe cercata, perché c'era l'amministratore di sostegno che diceva che mia mamma non voleva vedermi, perché mia madre purtroppo ha, come tutte le mamme, ama un figlio di più dell'altro. E allora probabilmente era plagiata, e tant'è vero che mi ha diseredata. Pure. Sì. Però, mi ha diseredata, però, scusami, lasciando tutto. Maurizia, quando tu dici sono sola, mi hanno abbandonata tutti, chi ti dice, cioè, tutti, non stai praticamente, ma da voi sola. Non c'entrate, il mio Cruciani e il mio parente. No, ma figurati, no, noi siamo qua e siamo, come dire, sai, ma che... io mi chiedo una cosa, ma perché la signora, perché Barbarina Nazionale, D'Urso, sì, che noi li vogliamo bene, ma perché si mette in ginocchio davanti a Lussuria? Fatti invitare da Barbara, facciamo un appello, perché Barbara D'Urso ti invita in trasmissione a raccontare la tua storia. No, io non voglio essere invitata. Io vorrei che Cruciani e Parenzo, che mi vogliono bene, chiedessero a Carmela, donna Carmela, di ascoltarmi. Sì. Va bene. Cosa deve ascoltare? Non voglio essere il mio dolore. Io vorrei chiedere, io vorrei spiegargli, siccome la mia mamma io gliel'ho portata lì 4-5 volte a pomeriggio 5. Sì, ma non voglio capire perché vuoi andare lì. Che cosa vuoi fare? Io vorrei, siccome mia mamma prima di morire mi ha lasciato un messaggio per lei. Per la D'Urso. Sì, per la D'Urso. Io ho detto, mamma, vai in pace di Dio. Ti saluto io, ti saluta Barbara D'Urso e tutto. Quando ho detto Barbara D'Urso, mia madre, ho filmato, ha fatto un gesto strano con gli occhi. Cioè? Che ha fatto? Perché mia madre veniva a pomeriggio 5 e quel pomeriggio, a pomeriggio 5, si è messa a raccontare in televisione. Le ma perché tutto finisce in televisione? Questo è il tema vero. Cioè, il mia tema madre che... era un esibizionista, era un artista. Parte, lo sapete tutto, lo sapete tutti. Sì, tutto no, ma io sono affascinato anche da questo fatto che tutto diventa televisione, che tutto viene fagocitato dalla TV. Mia madre, poverina, faceva il lavoro più antico del mondo. La puttana, vabbè, pure lei. E che devi fare? Ma non faceva neanche la puttana, poverina, perché alle puttane bisognerebbe fare un monumento. Non c'è, perché non ci possono le puttane. Voi mariti, ma perché da questo invece di ammazzare una moglie ne ammazzereste 5. Ma per carità, devo dire, questo diventa un altro ragionamento. Maurizia, tu stai male, però sei sempre in grande forma, ti giuro. Io non capisco perché la televisione ti snobba, perché sei eccezionale. Ancora sei viva, sei viva. Lo devi gridare forte. Sono viva, cazzo, dillo, gridalo a tutti. Io sono viva. Ma tu mi... allora facciamo una cosa. Facciamo una cosa, facciamo una cosa. Allora, ricominciamo da Cruciani, da Parenzo. Sì, sì, ma ricominciamo da noi. Però voglio capire una cosa. Torniamo un attimo alla tua situazione. Ricominciamo da voi. Perché piangevi? Perché piangevi prima? Perché piangevi? Dimmi, spiegami. Io piango perché sono disperato. A differenza di Vladimiro, di Vladimiro, Vladimir, Luxuria, Vladimir, sì. Vladimir, ce l'hai, Vladimir, ce l'hai pure a differenza con... di Vladimir, che sarebbe Vladimiro, sì. Che vabbè, comunque questo... si dispera perché Sgarbi gli ha dato del travestito, e che comunque non ha tutti i torti. Adesso va bene, tu, no, ma che te ne frega a te, perché voglio dire, cara Maurizio. A me non me ne frega un cazzo, ecco, però pronto. Sgarbi è stato anche abbastanza scorretto e sgarbato, poteva avere un po' più di tatto il signorino, visto però... considerato che comunque a Bello 92 mi baciava dietro le quinte di Rai 2, ecco, quindi visto considerato che lui ama i travestiti, come ha dichiarato, poteva essere molto più garbato con noi travestiti, perché io comunque non sono una donna, vabbè, però... sono un travestito, ma sei, sì, no, tu sei, beh, una, sì, tu ti sei tagliata l'uccello, per cui ormai sei una donna a tutti gli effetti, amica mia, cioè, non ma è che... allora io ho avuto un uccello, ma io ho fatto un piccolo trasferimento, io ho goduto di una piccola Delta Sound, di una visione totale del mondo quando l'ho trasferito dalle zone basse alle zone alte, che è il cervello. Sei un genio. Allora spiegami una cosa, tu hai detto, leggo, cara, qua, sono a casa sola. Ma ti ricordi, Maurizio, aspetta, quando no, di no, 15, 12 ricordo, anni fa, dicevi, no, ma era meraviglioso quel hop hop, mi metteva di grandissimo buon umore. Allora te lo farò diventare duro come la coda di un canguro, hop, così sono il duro. Allora, questo mi rimetteva, io ti giuro, quando ero depresso 12 anni fa, magari, no? Che all'epoca era un po' triste, depresso, sì, eccetera. Io ascoltavo la Maurizia che invitava ovviamente a Telelombardia, e c'era, ci fu questo memorabile ascolto tra Maurizia Paradiso e Maurizio Ruggero, il cattolico tradizionalista. E ci fu Maurizia che a un certo punto urlò nello studio, aiutarmi, spogliandosi, potete darmi una mano? Aspetta, aspetta. Come diceva? Hop su bel duro, ve lo farò diventare duro come la sella di un cosacco. Così erano tutte poesie. Scusa, che tu ce l'hai, leggo qui, Maurizio, ce l'hai, sei un valore inestimabile, c'è da tutelare. Ce l'hai con paese. Chiambretti, perché dice ti ha abbandonato, tutti sono dimenticati di me. Allora, io non capisco perché Chiambretti, sì, al fatto, quale certo io gli ho fatto almeno 10 puntate, sì, che ha fatto? Adesso fa la oggi come parte, si chiama, sì, oggi come si chiama la sua trasmissione? La Repubblica delle Donne. La Repubblica delle Donne. La Repubblica delle Donne. Io che cazzo sono? Ho capito, però sono adesso tante donne, però, in Italia, capito, però. Ci sono anche tante altre donne in Italia adesso. Ma perché non mi dà lavoro, non mi chiama, che sono questo a casa a far niente, sono depressa perché è morta mia mamma e mi viene voglia di uccidermi domani mattina. No, ma non dire così, perché tu sei piena di vita, non dire cazzate. Adesso dai, ti facciamo invitare anche da Barbarella. Barbarella è attenta, la Barbara D'Urso. Sì. Questo possiamo fare. Ma io tutto. Voglio bene a Barbara perché mi ha anche perdonato. Ma hai bisogno di soldi? Hai bisogno di soldi? No, perché me li guadagno da sola, io non sono cicciolina, mi dispiace. Io non voglio niente che non mi sia guadagnata. No, da qui, hai bisogno concretamente di soldi per campare oppure ma no? Ma lei vuole lavorare per la sua dignità. No, io voglio lavorare dicendo. Per la mia dignità. Ma spiegami un attimo, la leucemia come siamo messi? La leucemia io posso cantare vittoria fra un anno e mezzo, per adesso ancora no. Io sono andata ieri mattina da sola come un cane a fare le analisi per la leucemia, caro Cruciani e caro Parenzo. Ma ti hanno se fin i tuoi amici? Mi trovo adesso, amici. Sto parlando col signor Cruciani e il signor Parenzo. Ecco, guarda, c'è un signore che sta ridendo. Signore, lei conosce Cruciani? Ecco, vuole attenzione. Siamo in diretta. Fermi tutti, arriva una notizia positiva da Mediaset. No, via lui, via lui. Voglio, mi ripassi Maurizio, perché ho in diretta una. Scusi, ma. Che cosa? Ecco, voglio Maurizio. Aspetta, Maurizio, in diretta mi sta arrivando un messaggio da amici di Mediaset, sì, che mi dicono segnalazione fatta per Maurizio. Ecco, fermi, mi arriva. Fermila, fermi tutti. Fermi tutti. Fermatevi tutti. C'ho un senegalese qui che è un mediatore culturale, Modu Gay. Buonasera. Senegalese? Allora. Ma che te l'hai fatto tutti ieri sera te gli uccelli? Allora, mi è arrivato un messaggio anche da un'amica che lavora nella televisione, che mi ha detto siamo tutti team Maurizio. Ho già mandato un messaggio a Barbara. Benissimo. Ma abbiamo in collegamento Maurizio Paradiso. Maurizio, ci sei? Ciao Cruciani, ciao, ciao, ciao. Vedi, cara, che la gente ancora si mobilita per te, lo vedi che la gente è ancora bello, lì. Ma aiutatemi, io vivo solo. Ma non credo, perché? Perché, con il mio cagnolino. Perché sei sola? Perché nessuno ti viene a trovare? Ti sei fatta terra bruciata? Perché ti sta, le persone si sono staccate da te? Ma non mi sono fatta terra bruciata. Quando il cane mangia cane, io avrei dovuto morire nel 2015, voi lo sapete benissimo. Io ho avuto il peccato di non essere morta. Ma economicamente prendi sempre i 280 euro al mese di validità, sì, civile? 280 euro poi, al mese, e poi? Faccio qualche seratina, però con dignità. Io non chiedo niente a nessuno, perché mio marito svizzero non mi passa niente. E chi ti aiuta? Chi ti aiuta? Nessuno! Ma un amico mi aiuta, leggo, ogni tanto. Un amico mi aiuta. Leggo, sì, qua. Gli amici che mi aiutano sono quelli che vorrebbero scoparmi. Vabbè, quello sai, è un classico. Quello è un classico. Ma dice, qua leggo da qualche parte, che hai comprato delle case. Una volta me l'avevi anche detto. Ma quando ero giovane tutto, meno male, meno male. E dunque non sei infatti in miseria. Infatti io non faccio come la signora Staller, che viene a lamentarsi perché gli hanno ridotto la pensione. Vitalizio, io ho, sì, la mia dignità. Dillo che il vitalizio fa schifo. Immagino, ti fa schifo il vitalizio. No, non mi fa schifo, perché tutti le persone che prendono un'invalidità al 100% prendono 280 euro al mese. Appunto, quindi ma quello... non mi fa schifo. Io accetto di buon grado. No, il vitalizio, quello dei politici, il vitalizio. Beh, è un'altra cosa. È chiaro che mi fa schifo, lo posso andare a prendere solo. Sai dove? In quel posticino, posso andare a prenderselo. Che insomma, con tutti i soldi che prendono, avrebbero dovuto aumentare la pensione di invalidità agli invalidi civili al 100%. Bravo, ma qualche marchetto ogni tanto la fai o no? No. Ascoltami, io ho fatto marchette da qui fino a Kathmandu e tornare indietro, ok? Quando ero giovane. Ormai basta. Comunque, amica mia, che ti devo dire? Ma io ho 65 anni a giugno. Lo so. Io non me la sento più. Io non me la sento più di mettermi nelle mani di uno che mi tocca le tette e magari mi tocca le mie parti intime. Ma che schifo, io piuttosto. No, io non voglio niente da nessuno, diceva prima David Parenzo. Io vorrei, siccome sono ancora carina, la foto che ti ho mandato prima, sì, sono io sabato. Sì, vabbè, va benissimo, io lo so, però vorrei che non piangere. Io vorrei, prima ti sei messa, prima ti sei messa a piangere, prima ti sei messa a piangere. Ma io mi smetto a piangere perché mi manca mia mamma, perché mia mamma è stata plagiata e ha fatto una lettera che un è stata vigliacamente presentata 7 mesi e mezzo. Senti sta voce, aspetta. Sì. Tesoro, per una strana volta sono in macchina, ti stavo ascoltando e ho già lasciato un messaggio a Barbara per Maurizia. Siamo tutti team Maurizia. Avanti, assolutamente. Ma capito? Che carina, chi è questa donna? È un'autrice, non so se lo posso dire. Non si può dire, non Maurizia, si può dire. Ti abbraccio, dai, a presto. Mi raccomando, adesso ti mando in qualche posto a fare l'inviato per noi, a fare un po' di casino, capito? Ma prendetemi voi, datemi una mano, vi prego, perché certo. Sono io, ve lo dico subito. Io le pastiglie che il dottor Limosani scusami Maurizio, proposta operativa. Aspetta, se no tu non ho capito. Perché sennò io è inutile che vivo su questo pianeta del cazzo, me ne vado su Plutone. No, aspetta, proposta operativa. Già lunedì ci sarà il primo collegamento. Dove? Maurizia verrà inviata dove per la zanzara. Dove la vuoi per inviare? La zanzara in dove? Un oratorio. Andiamo in un oratorio e facciamo delle lezioni fuori dall'oratorio. No, con delle suore. Una grande inchiesta. Maurizia Paradiso intervista le suore, ma è elegantissima. Ma io essere, mi allineo, capito? Alla linea editoriale, io sono una brava intervistatrice molto coraggiosa. Ricordiamo il motto, quello straordinario di 10 anni fa, ricordiamolo. In com'è chiusura, il motto? Com'è op, il motto? Op, op. Ve lo farò diventare duro come la coda di un canguro. Op, op, sono duro! A proposito di situazioni un po' precarie, chiamiamo Emilio Fede, va, perché lo sai che è successo l'altro giorno. Una giornata incredibile, è caduto, pare in casa, fuori, non lo so, è stato ricoverato all'ospedale, oggi c'erano pure notizie drammatiche su Emilione, chiamiamo. Sono il giorno che muore di 5, un giorno l'altro io ho sognato. Questo qua che chiama gli viene un cancro al buco del culo. No, scusa, ma siamo noi la zanzara? Emilio? Ehi, scusami. No, conosciuto per farlo, capito? Che è successo, Emi? Ma io ti ho chiamato perché ho letto che stai in ospedale. No, sono uscito oggi. Ma che c'hai? Niente, sono caduto arrivando a casa. Siccome i maledetti non si decidono a mettere un percorso normale, c'è tutto pietrisco. Ah, sono sì. arrivato a casa e sono sfiondato a terra. Ma io scusami, spiegami una cosa, Poveretto, ma dove sei caduto? Una sfiga dietro l'altra, ma dove sei caduto? A casa o fuori? Sono caduto rientrando a casa. Sono caduto. Può succedere che io, arrivando un po' di corsa, sono caduto faccia a terra e sono massacrato. Finito in ospedale. Ma dove ti sei massacrato? Che ti sei fatto? C'ho la faccia, ho battuto di faccia. Sì. Quindi, c'hai la faccia tumefatta? Che c'hai? Qualche frattura, qualche cosa? Sì, faccia tumefatta totale. Totale, Ma perché? Ma come mai? Come mai? È anziano, è scivolato. Che cazzo ti devo dire? C'hai 2 anni. Pure. Posso dire che mi dispiace. Ma certo, ma anche l'età, cosa vuoi che ti dica? Sarà l'età, pazienza. Ma stavamo lì per perderti, no? Perché qualcuno ha detto. No, non hai rischiato la vita. Chi lo sa? La caduta è stata veramente dura. Dura, sì, molto dura. Però sono stato a San Raffaele, sono stato curato perfettamente. Meno male, questo sempre. Il presidente Berlusconi è sempre pronto, mi sembra, no? È caduto pure Berlusconi, no? Perché ne so, magari l'ha aiutato Berlusconi. Pure Berlusconi è caduto, sì. Non so dove, a Zagabria. Molti mi chiedono: ma perché la Zanzara non si occupa più di te? Perché aspetta, mi capita una disgrazia ed eccoli qua. E noi siamo dei figli della mignotta, come sai, no? No, non sono più i tempi del figlio della mignotta. Io sto lavorando, sto scrivendo ancora quello che sarà il libro. Basta, Emilio, basta. Scrive un libro, bellissimo. Ma dedicati ad altro. Il libro si chiama Le mie prigioni, come Silvio Pellico, stupendo. Io sto scrivendo questo libro, dove ci siete certamente anche voi. Meno male. Che onore. Il libro è intitolato Che figura di merda. Ah sì, lo so, ho letto da qualche parte. Sì, che figura di merda. Ci siamo anche noi, veramente, meraviglioso. Sì. Grazie. Sì. Grazie. Però scusami Emilio, ti volevo chiedere una cosa. A me sembra veramente assurdo che tu stia ai domiciliari, no? Anche a me. Cioè, ti rendi conto, un uomo anziano di quanti anni, scusa Emilio? Quasi 88 anni. Hai gli arresti domiciliari per favoreggiare. Qual è il reato esatto? Istigamento? Ho fatto un reato gravissimo. Avrei tentato di indurre due ragazze che stavano dove stavano ad Arcor, a prostituirsi. Ma ti rendi conto? Cioè, ti hanno trattato come un pappone. No, ma io questo sono serio. Bisognerebbe eliminare questo reato. Una cosa ridicola. La prostituzione è libera innanzitutto. E dunque anche chi induce alla prostituzione. Vittorio Feltri, che ha detto l'Italia è l'unico paese dove chi scopa può essere arrestato. Ma io non l'ho scopato, magari. Ma scopato, qualche scopata la sei fatta pure te, amico mio. Ma no, 88 anni no. Ma prima, ai tempi che ormai non ti tira più, diciamo, questo lo possiamo dire. Intanto lo sanno tutti. Lo possiamo dire. A me non tira più, a 88 anni. Ma la sua età, ma non finalmente si pone neanche, non tira più. Vabbè, ma non si pone neanche il tema, neanche il problema si pone. Scusa, avrà altri pensieri. Che ne non sai, quella c'è, roba gente, c'è gente che a 80 anni ancora tromba. Beati loro, che una persona a 89 anni. Sì. Siamo lì. Sì. Oramai il giro si sta per chiudere, no? Sì, certo. Venga messa ai domiciliari. Io trovo che, perché dai, è umiliante. Dai. Scusate, date pazienza. A 89 anni mi mettete ai domiciliari, va bene, fate voi. Cioè, posso uscire da qui e andare direttamente al cimitero, insomma, non è che... Vabbè, Emilio, auguri, dire. Mi raccomando, avanti tutta, ciao, mi raccomando, caro direttore, mi raccomando, sto bene e piatevela under culo, quelli che me l'hanno tirata, no? E chi l'ha tirata? Che figura di merda, storica, ciao ragazzi, grazie. Ora non so se avete notato, David, all'inizio della telefonata, incredibilmente, uno chiama e lui pensava che fossero delle persone anonime, cioè fossero i soldi che gli rompono i coglioni, no? Ora io proverei a chiamarlo per vedere che reazione ha, perché è sempre così, è incredibile la reattività di quest'uomo. Proviamo a richiamare un secondo e gli faccio la voce come se lo chiamasse uno stalker. Sconosciuto, vai, pronto? Mm? Sì. Gaetane? Pronto? Gaetane? Pensa che con tutto quello che succede, avere uno che ti rompe i coglioni a fare lo spiritoso. Mamma mia, ragazzi, che pena. Direttore, poi è tutta gentaglia. Hai finito? Direttore, tu pazzo. Direttore, richiama, ti prego, richiama, richiama. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Conosciuti fecero loro, pronto, sì, forza, dai. Direttore, questo lo conosco, è uno che c'ha un tumore. Ma l'hanno detto che c'ha un tumore di fin di vita. Direttore, poveraccio, questo c'ha la moglie che fa i pompini in giro e lui c'ha un tumore. Direttore, ne abbia per poco. Direttore, ti auguro che tu possa morire già stanotte, e quando faccio gli auguri io ci puoi contare che si realizzano. Una bella schiantata d'infarto stanotte. Auguri, auguri, pezzo di merda, auguri. Direttore, ragazzi, sta benissimo, sta alla grande, altro che... Pronto, chi parla? Sì, buonasera, sono DJ Adolfo di Radio Veneto Libero. Stavo cercando nonna Rosina. Un attimo che gliela chiamo. Grazie. Nina! È il telefono! Subito! Siete quelli della radio? Sì, Radio Veneto Libero, signora. Posso parlare? Oh, beh, dai. Perché che sono anche prima, non go adesso che sono ancora. No, no, io ho telefonato appena adesso. Nonna Rosina! Sì! Sono DJ Adolfo di Radio Veneto Libero. Si ricorda di me? Sì, buonasera. Nonna Rosina, tiene ancora il forcone a portata di mano? Sempre, sempre. Ah sì, ce n'ho due, tre, neanche uno solo. Ce n'ho uno di bella nuova che mi ha regalato la polizia. Ha sentito che Onichini è stato condannato? Sì, ho sentito. Proprio stamattina è venuto qui mio figlio. Mi ha detto, mamma, ci hanno dato ancora che 4 anni e 11 mesi a Walter Onichini. Sì, ma il procuratore generale aveva chiesto la soluzione. Senta, se quei delinquenti stanno a casa sua, non succede niente. E perché deve essere condannato Walter? E appunto, perché? E chi è stato delinquenti loro, dei giudici che l'hanno condannato? E ha sentito anche di quell'altro caso di tale Franco Iachi Bonvini, il tabaccaio di Ivrea, che ha fatto secco uno della Moldavia? Erano in tre, no? In tre. Sì. Uno l'ha ammazzato. E perché non ha ammazzato anche gli altri, porca vacca? Appunto. Hanno detto che, come si chiama, Salvini aveva fatto che vengono, che si può sparare, che si difendersi. Fosse... E perché ora adesso questo verrà condannato anche lui? Speriamo di no, però gli inquirenti dicono che questo Franco Iachi Bonvin ha sparato dal balcone alle spalle. Ma sicuramente questo stava scappando, e perché io non dovevo ammazzarlo? Se ci hanno portato via più di 2000 euro, dovevo lasciarlo scappare quei 2000 euro. Nonna Rosina, lei cosa avrebbe fatto? Io li avrei infilati, e poi fatto un trofeo, li avrei alzati con la forca, fatto un trofeo. E poi il trofeo dove lo mettiamo? In fratta, sono vicino al fratta. Tempo fa hanno detto i carabinieri, ma buttateli in fratta che si annegano, che vanno via con l'acqua. Nonna Rosina, se ci fosse ancora il Duce cosa farebbe? Mio nonno è morto a 100 anni, ma sempre detto, se c'era lui che non lo ammazzavano avrebbe comandato ancora lui. Inutile che dicano siamo fascisti, no. Era un uomo bravo, migliore di quelli che c'è adesso. Esatto. Era meglio Mussolini, ne aveva fatte di belle e buone. E non era lui che comandava di andare a ammazzare la gente, erano i suoi seguaci. Grazie nonna Rosina. Un saluto a lei e suo marito da Radio Veneto Libero e da DJ Adolfo. Evviva Radio Veneto, grazie. Brava. Grazie, arrivederci. Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Giro a piè ma non è sopra il ciel che voglio un aeropla. Bimba attacca, lascia pè. Roma è bella, dice il re. Culo sopra una lita, quando la manda mon frère. Ruben Sosa, non tengo i piedi per te. Cose nell'età, nella mia spra. Cucarraccia nelle scafrate, sembra tua lì. E che cos'è? Sembra di stare a tua lì. E che cos'è? Sembra di stare allo zoo. Sembra di stare a tua lì. signorina, ma perché le pare che noi abbiamo l'aria da teppisti? Per carità, mai detto una cosa simile. Ah no, e che le sembra che siamo, signora? Ma no, niente. Perché non scendete dalla macchina? Non siamo mica a tua ricca. È che siamo in ritardo, dobbiamo lavorare, stiamo già sforando. Ah sì, state un po' sforando. E che vi serve? Una storia tutto sangue da far venire il vomito per montarci uno scoop? Ma la volete smettere? Ma sì, guarda che la piazza a casa nostra, puttana di una bianca di merda. Vattene a far culo tu. Calmatevi, ce ne andiamo. Guarda che stronzo. Non sei mica a Tuari. Fammi una foto coi fra, fa la foto a Tuari. Sembra di stare a Tuari. Sembra di stare allo zoo. Sembra di stare a Tuari. Sembra di stare a Tuari. E che cos'è? Sembra di stare a Tuari. E che cos'è? Sembra di stare allo zoo. Sembra di stare a Tuari. Sembra di stare a Tuari. Ma andate a cagare, va, giornalisti di merda, va. Siete delle merde, basta. Fanno bene togliervi i soldi. I cantanti Ghali e Mahmood, le scrittrici Jaba Shego su Maya Abdelkader, ma anche l'infermiere Javier Chunga e la dottoressa Samar Siniab, morti di Covid mentre curavano i loro pazienti in Italia. Queste e altre sono le storie dei nuovi italiani. Sono Valentina Furlanetto. Vi aspetto con I figli di Enea dal 6 settembre, la domenica alle 14, naturalmente qui su Radio 24. Aspettando la zanzara. Grande ritorno, il brasiliano con noi. Buonasera, buonasera, buonasera. Direttamente dalla cucinetta magica, ma adesso già fa io a rompere i coglioni, ma adesso già fa io. Ma sì, ma cosa? Che cosa ti stupisce? Contro tutti, chi sarebbero sti contro tutti, caro aspetta, Giuseppe? aspetta Brasile, adesso fra poco ti presento una persona che ce l'ha con te, che ha delle cose da voglio dire. Capire, scusi signor brasiliano, anzitutto per capire se lei è informato sui temi dell'attualità, ha visto che il premier Rutte è un po' in lite con l'Italia, ha visto, no? Ma lascia perdere Rutte, è maleducazione fare Rutte, ma chi Rutte? Il premio olandese, no. Il premio olandese. Ma io quando bagno faccio i Rutte, io faccio certi Rutte. È una cosa pazzesca. Scusi, lei scusi, i paesi frugali, lei sa quali sono i paesi frugali? E ride. Ma perché ride? Perché la paese il tema di questi perché il paese reale quello del Brasile. Delle fragole, non frugali. Ma che cazzo stai a Poro Parenzo? Scusami, ma come Poro Parenzo? Perché scusami, brasiliano. Scusami, amico brasiliano, lei come farebbe le trattative con l'Olanda? Cioè, avesse sì, questo è giusto. A proposito d'Olanda, io farei una trattativa con l'Olanda. Innanzitutto manderei dei soldi contanti perché c'hanno un'erba mostruosa in Olanda. Ma che erba? Fare il baratto, erba soldi, perché a Roma non c'è sta né fumo né erba oggi. Questo è interessante. Questo è interessante. Cioè tu ma non c'entra niente con il recovery fund. Non c'entra niente con il recovery fund. Tu dico io recovery fund. Allora intanto con l'Olanda dovremmo fare il baratto del secolo, cioè? Ci facciamo mandare 1.000 chili di erba, lo vendiamo con un giorno a soldi subito. Intanto, ma cosa dici? Questo è interessante. La sua manovra economica. Che avevamo in Italia li levamo con due giorni. Voi mi date 3-4.000 chili di erba e di fumo. Io me levo tutti i buffi all'Italia. Ma anche i buffi all'Italia. Ma non si può però fare, mettiamo una situazione, caro Brasile. Qui lei sta facendo le trattative con l'Olanda, col premier olandese, con la Merkel, con l'Austria, Brasile, rappresentante di governo, e quelli faccia a faccia, e questo qua non te vuole dai soldi. Dice: no, i soldi a voce di no. No. Tu che fai? Che fai? Dico, fratelli, mettete a sede, fratelli. Chiedo prima una pacchetta sulla spalla, come da dire, come da dire, la piccola pacchettina, e poi ci parlerei a tre occhi, ma a modo mio, che non si può dire per telefono. No, ma com'è che appunto, faccia a faccia con Rutte, perché qua a un certo punto ci vuole l'intervento del brasiliano, com'è che lo risolveresti? Allora, faccia a faccia con Rutte, io gli ricambierei la medaglia, intanto gli hai Rutte in faccia. Subito così, e poi vediamo quello che succede. Secondo me il Brasile contro Rutte è la soluzione che ci vuole in questo momento, caro David. Inviare immediatamente questo. Il Brasile alla trattativa europea. E con Kurz, col cancelliere Kurz. Cancelliere, io a scuola lo il cancellino, quello lì giusto, quello per cancellare. No, il cancelliere, pazzesco. Quindi mi informano, mi informano che lei ha preso il Cialis, caro Brasile. Cioè, anzi, allora, lei... siccome ti spiego un arcano, questo, metti di seduto comodo. Sì, allora, sì. Quando gli tagli il cazzo a una con Cialis, te la bitti con Cialis, sì. Tu te la devi scopare sempre con Cialis. Perché cioè, a me mi viene una compattezza, diventa duro come i mattoni. Allora, sì. Se tu ce l'hai mezzo barzotto la volta dopo, sì, quella è normale che cazzo non lo più. Quindi questo anche una bella, vedi questa ma qua. Cosa dice? No, queste sono le lezioni di vita del brasiliano. Posso dire la verità? Non ha torto il brasiliano. Tu ce nasci e tu ce vivi e cazzo barzotto, papà Renzo. Dammi resta al brasiliano. Tu c'hai la faccia da cazzo barzotto. Ma come si permette? Ma come si permette? Ascolta. Poi vengo a Milano prossimamente, io ti faccio un bel regalo, te porto quattro Cialis. Tu te ne prendi uno, poi ce l'hai. Ma dammi resta al Brasile, la squadra non gli rifare il suo dito, dammi resta al Brasile. Ma dai, io non voglio rifare proprio niente, va tutto bene così, grazie signor Brasile. Però lui ha ragione su una cosa, il Brasile, cioè una volta che tu una inizi a scopartela col Cialis, lui dice, sì, giustamente vabbè, dopo non puoi abituarla a qualcosa di meno, giusto? E questo, è questa è la regola fondamentale. Cosa ando vai? Cosa allora, signor Pertetti, ando vai Pertetti, Francesco da Firenze dà un giudizio, buonasera Francesco, dà un giudizio pacato direi sul brasiliano. Qual è il suo giudizio, come dire, sul brasiliano come persona, come performer? Francesco, dimmi. Buonasera a tutti voi, nel senso, io a parte mi chiedo come possa farvi ridere questo poveraccio di 40 anni col senso dell'umorismo di un tredicenne. Poi voglio soltanto dire che voi state commettendo un grave torto nei confronti del Brasile, perché tutto il tempo che lui passa al telefono con voi è tempo che invece dovrebbe spendere al CERT o nella migliore delle ipotesi presso una comunità di recupero per tossicodipendenti. Ma perché? Ma che magari sta bene, rendetevi conto del danno che voi gli state facendo, oltre a farlo credere più di quello che è, cioè uno che ha tanto così dal precedente passo evolutivo dell'uomo, ovvero il primate. Cioè lo stai considerando praticamente una scimmia e dici che è un drogato, praticamente. È un poveraccio, insomma, che pensa fa ridere Cruciani, che è un altro in crisi di mezzo anno. In un mese quanto tu guadagni in un anno, brutto, idiota, stupido, sciocco, capito che ti voglio dire? Ma tu, poveraccio rincoglionito, che ridi come un deficiente a battute che non farebbero ridere mio nipote di 13 anni. Ma che cazzo me ne frega a me di quello che guadagni tu? Come ride tua madre? A vendere lo shampoo e la barba su Instagram? Aspetta un attimo, però scusa Francesco, le critiche... Aspetta, brasiliano, bisogna affrontare Francesco con tranquillità, senza iniziare a parlare della madre, del civiltà, padre. Allora, civiltà, perché Francesco ha fatto delle accuse gravissime. Innanzitutto gli ha detto che è un troglodita, praticamente. La prima cosa che ha detto è un troglodita. L'accusa, scusami, è un'attestazione dei fatti. E la seconda cosa che hai detto, che è da CERT, questo è gravissimo. Da CERT significa... I video degli sbirri che se lo bevevano non l'abbiamo visto. Ma quelle sono vecchie. Rispondi brasiliano a questo qua. Rispondi a Francesco, per favore. Vai. Ma Francesco non merita risposta, anche perché è di Firenze, sarà di sinistra, sarà brutto, bianco, con una capoccia così. Fatta qua la lampada. A Firenze siete tutti cazzi con una capoccia così, vai. Aspetta, avvicinati meglio. Tu il telefono, secondo me tu sei imparentato con Sgarbi, un altro che non sa usare il telefono. Certo, meglio con Sgarbi che con te, brucio idiota sciocco. Meglio con Sgarbi. Quanto hai guadagnato oggi a vendere il gel per i capelli su Instagram? T'hanno dato 50 euro. Domani che fai invece? Vendi il balsamo per i piedi? 3.200, tu in 4 mesi guadagni, fratelli. Ma tu non sai neanche contare fino a 3.200, cosa dici? Non sai neanche contare. Il brasiliano 3.200, non parlare in terza persona di te stesso, che sembri coglione. Non parlare in terza persona di te stesso, che sembri coglione. Hai capito? Allora, calma. Allora, io non capisco, Guercio, che non sei altro. No, come Guercio? Che c'entra Guercio? Quello ha avuto un problema, che c'entra? Sei scemo, sei. Ha avuto diversi problemi. Io sto parlando con te con il sorriso, perché mi fai sorridere, brutto stolto, idiota e stolto. Però Francesco, tu non puoi rimproverare a brasiliano il suo trascorso da cocainomane, dici dovrebbe stare al CERT, il suo posto dice... Tu il brasiliano perché l'hai chiamato la prima volta? Ma cosa c'entra? Perché era un influencer. Ma che fai te?

Cioè, che ha fatto? Tutto di tutto, sto prete. Prete, vabbè. Tutto, di tutto. Scusi, signora Carmela, oltre ad essere a fare questo grande spot per la 7 che andrà in onda, il programma, carità, in onda, programma in onda da lunedì carità, prossimo, lei è diventata lo sponsor ufficiale. Ma col cavolo, Carmela, la prostituta dei parioli. Non sporchiamo è tutto. Diventata, sì, la prostituzione è libertà, no, gente? Assolutamente. Dunque, siamo in un mondo democratico. Un mondo libero, democratico. Io grazie, ma non faccia nulla. Grazie per tutto. No, ha già, sta zitta, ha già fatto uno spot. E c'è già la virgola per lo spot, naturalmente, eccola qua. Mamma mia. Scusi Carmela, una curiosità, mi dicono però in un messaggio che lei ha una voce un po' strana, anche un numero di piede piuttosto lungo, non è che per caso lei si è tagliata l'uccello prima di venire qua in Italia? No, io volevo avere tutte e due, no? Mi sogno era essere bisessuale pure, perché così hai più possibilità di avere amore, però io sono una donna. Ah, è una donna. Dunque, possiamo chiarire una cosa: non hai l'uccello, non hai l'uccello, no. E non ce l'avevi nemmeno. No. E non ce l'avevi nemmeno prima questo uccello. Ma anche prima. Nemmeno prima, però. Nemmeno prima. Forse come transessuale. Donna. 100 per. Come... Il piede pure è piccolo, è 37. Mi ah, 37. Chi è che mi ha detto 43? Che cazzo dico? No, gli ascoltatori si inventano di tutto, ma magari hanno beccato un'altra Carmela. Ma perché Carmela poi? Perché Carmela? Perché mi piace questo nome, è bello un nome siciliano delle donne con le tette grandi, così immaginavo così questo nome. Provi a dire per piacere Capezzone, se ma può. Perché Capezzone? Capezzone. Grazie. Come grazie. Capezzone? Come lo dica ancora, Capezzone. Ti aspetto. Caro Capezzone, ti aspetto. Ecco, dica caro questo. Caro Capezzone, ti aspetto. Perfetto. Questo già una meglio. Bella giornata, casa mia. Un bello e allora un diciamo bello uno, pompino si potrebbe diciamo dire. Allora uno adesso sto facendo come fai caldo sto facendo un pompino con la fredda vabbè capito che c'è il caldo con la pompino con la bocca fredda è maraviglioso vabbè. Vabbè a me non interessa francamente quello che fa lei signora. Ma perché non ti interessa? Perché non me ne frega niente, non me ne frega nulla. Non ho provato prima di dire devi provare, no? Grazie, sì, esce. Se non prima voglio di dire, provare no, prima niente di dire signora, no, non me ne provare. Frega nulla. Ma un no, pompino con la bocca fredda si potrà mamma fare. Mamma mia, posso dire che non me ne interessa niente di quel che fa sta signora? Però scusa Carmela, prima di lasciarci io vorrei che tu facessi una cosa. Un grande saluto ai dirigenti di una grande grande televisione. Un saluto caldo, un saluto molto caldo ai dirigenti della 7. Ma perché? Ma è bellissimo, ma è un saluto bellissimo, non è una cosa offensiva. Perché considerate le prostitute come delle minus? Fai saluti, no, ma perché non c'è bisogno di sono tutto pulidina. Sono carine, educate, teniamo pure famiglia, gente, per carità. Non c'è nessun bisogno. Ma tu devi mantenere delle persone in Brasile? Devi mantenere sì pure aspetta fermi tutti allora famiglia, fermi tutti però fermi me. Tutti fermi che c'è? No, aspetta che non è successo niente fermo allora sì. Allora Carmela ecco faccia buongiorno è stato contattato da MR per conto di Eni Gas e luce relativamente per la sua utenza di luce o gas ma che cazzo c'è digitando il tasto 1 verrà contattato ma cosa c'entra ma stai giù Parenzo allora vai che parlo la cosa allora, sì. Carmela, scusa, devi fare un grande saluto a ma tutti i dirigenti carità. Della SES. Saluto caldamente, caldamente tutti i dirigenti di una grande televisione, la 7. Solo questo, grazie. Saluto caldamente tutta la gente di una grande dirigente di una grande televisione, di una grande televisione, la 7. La 7, brava, la 7. La 7. Grazie Carmela, grazie. Baci, pompino con la cosa, pompino con la bocca fredda, mi raccomando. Con l'acqua fredda. Con l'acqua fredda. Parenzo, tu sei il più grande curatore del mondo. Sei il più grande curatore del mondo. Cattiva! Carmela? Ciao ragazzi. Ciao Carmela, come stai? Hai chiamato? Oh, cosa vuoi dire Carmela? Mia. Carmela, la prostituta dei parioli. Dimmi, ci volevi dire qualche cosa Carmela? Dimmi. È maraviglioso. Questo è maraviglioso, diciamo, in generale quello che fai. Grazie. Dimmi tutto Carmela, che hai fatto ieri sera? Parenzo è maraviglioso. Ieri sera ho visto Parenzo in onda sulla No. Molto bene. Allora Carmela? Che bello, intelligente. Che chiarezze le parole. Vabbè. Molto bello intelligente. Grazie, scusami, ti sta facendo. Ma com'erano i capelli un po' cotonati? Ti sei un po' eccitata a vedere Parenzo o no? Ma perché? Mentre carità, lui ma perché? Parlava, mi sono eccitata, mi sono masturbata. Ma allora, ma signora, mi faccia una gentilezza per piacere. Non, guard, non lo guardi, non lo guardi. Mi faccia mi fa una gentilezza, guarda. Mi fa una gentilezza. Bello pompino. Ma non voglio niente, ah, signora, pompino, grazie. Anche a tuoi ospiti. Ma non voglio niente di tutto questo. Voglio lei sono non deve guardare. Di te, parento, ma sei innamorata dai. Di te? Ma, non deve ma scusa, per giuro, lui è una bocchiccia che sicuro sicuro fai godere le donne, eh? Sì, sì, questo secondo me è pure è uno può, nascosto guardi, da questo punto di vista davvero, ha delle qualità nascoste. La prego, scusa, mi dia retta, mi dia retta, mi dia retta. Guardi Capezzone, guardi Capezzone, ma ti sta facendo dei complimenti, guarda, ti sta mi facendo signori, faccia quei servizi, ma stai sereno, io sereno. Ha visto ieri la trasmissione, ha visto la trasmissione, viva, gli sei piaciuto più, ma non mi interessa, era bello vestito bene. Le un po' ingrassato l'ho visto, Carmela, un po' ingrassatino no, l'ho visto. No, ma chi sta giusto, giusto, giusto. Perfetto, perfetto, perfetto, maraviglioso. Io ho sentito pure che lui si sposerà, no? Sì, si dovrebbe sposare. Sì, no, non l'ha detto ieri sera. Naturalmente, però, si dovrebbe sposare in una data, come dire, a venire. Però questo non significa nulla. Anzi, uomini sposati da te vengono parecchi uomini sposati da te, immagino. Of course, io volevo andare pure a un matrimonio di lui. Volevi andare? Io volevo che lui mi invitasse sul suo matrimonio. Guarda, ti porto signora io insieme cara, al brasiliano. Non è il ti circo. Porto io insieme. Mi porta, signora mia, il matrimonio così non è il circo. Del convidato. Ma per carità, ma non c'è nessun matrimonio. Guardi, fine alla mi costringe fine. A cancellare la data io del matrimonio. Io sono la reina del Pompino, un parendo. Lei sicuro mi vede, che tu si innamorerà faccia, di me. No, scusami, lei faccia questa no. cosa dalla vostra parte. Quello va benissimo. Ma potrebbe lei essere. Vada da, vada, ma potrebbe essere straordinario. Quest'idea, scusami Davide, ma che tu come regalo ai tuoi invitati inviti anche ma Carmela no, alla pari, film che, come quelli film che c'è Penelope Cruz che lei fa, è invitata a una festa e dopo arriva un sacco di clienti e lei dice ciao ciao domani domani mi chiamo domani già visto questi film. Poi scusami Carmela, le persone che vanno al matrimonio di Parenzo ti assicuro che hanno dei quattrini da spendere che andranno al matrimonio di Parenzo, dunque tu puoi essere l'invitata ideale, il regalo agli invitati, una puttana invitata come regalo agli invitati. Beh amico mio, ma ti sto apparecchiando no? Tutto ti sto apparecchiando un grande matrimonio. Oh. Ciao Carmela, ciao ciao tesoro, ciao, ciao amore. Ciao. Chi mi ha chiamato da questo cellulare? Ma chi sei? Ma non ti conosco, chi sì, sei? Sì, sono Cruciani, chi mi ha chiamato da questo cellulare? Tu, a mamma, te padre, tu cornuto, sbirro, lotte, munnezza, ah, pure con gli sbirri bastardo. Ce l'hai, pure con gli sbirri ce l'hai, pure con gli sbirri ce l'hai. Sei un pezzo di me, tu sei uno sbirro bastardo, pezzo di e merda. E perché sbirro? No? Io sono orgoglioso di essere, se mi paragoni, se mi accosti a un poliziotto, ma sono orgoglioso. Ma tu sei una merda umana, vatti a fare uno sciampo, pucci, non voglio sentire... Puzzi sì. di merda. Sì, vai pure. Puzzi. Sì, puzzo. Io c'era il clima.